Innanzitutto i numeri. I malati sono 23.000, 2.700 i guariti, 2.100 i morti. Il numero dei contagi per il secondo giorno di fila è cresciuto a ritmi inferiori rispetto al giorno precedente. Un piccolo segnale di speranza. Il governo ha varato ieri un decreto con molti contenuti economici, alcuni sanitari, 25 miliardi, di cui 3,5 andranno alla sanità. Sospensioni fiscali per 16 filiere produttive e per tutti fino ai 2 milioni di fatturato. Stop ai licenziamenti avvenuti dopo il 23 febbraio, un'indennità per gli autonomi, la laurea in medicina che diventa abilitante e molto altro. Il resto del mondo pare essersi svegliato nell'ultimo paio di giorni. Macron, dopo aver fatto votare per le comunali domenica, annuncia 15 giorni di stop simili a quelli italiani, con 100.000 agenti ai posti di blocco. Boris Johnson, svolta, chiede di fermare spostamenti non necessari e di evitare pub, viaggi e contatti. Negli Stati Uniti Trump ammette una sottovalutazione. E la Cina? A Wuhan oggi un solo contagio, altri 20 sono importati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, care amiche, cari amici. Eccoci in queste giornate complicate, alle 6:30 minuti e 52 secondi. Inizia questa puntata di 24 Mattino di martedì 17 marzo. Con Anita Panizza in assistenza, insieme a Giorgio De Luca e Peter Bescapè in regia. E con voi ovviamente, 349-238-6666 per gli sms, ma soprattutto i messaggi su WhatsApp audio, la vostra voce, sentirla in questi giorni è importante. Dove siete, che cosa fate, siete dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, state andando in ospedale o tornate dall'ospedale o siete stati in turno fino a poche ore fa. Siete in casa sbarrati con i figli che non sapete che fare, svegli magari dalla mattina presto dai piccoli. Le vostre preoccupazioni, le vostre speranze, la vostra voce. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre, ci trovate là, 24 Mattino, e poi sempre su quella stessa pagina. Faccio qualche altra diretta nell'arco di queste giornate, eh? Oh, certo, insomma, ce ne sono molte altre. Ci sono quelle di tutti gli artisti, gli attori e via dicendo. Però, insomma, un punto nave ogni tanto sulla situazione che stiamo tutti vivendo. Siamo anche su Instagram e su Twitter, lo sapete bene. Dunque, la giornata nelle sue linee generali l'abbiamo riassunta poco fa, adesso andremo nel dettaglio, faremo qualche punto specifico, andremo su qualche racconto specifico, intanto però, come sempre, qualche voce della giornata. Allora, come al solito, il capo della Protezione Civile Borrelli ha fatto il punto alle 18, del quale vi ho riassunti i numeri pochi istanti fa. Ripeto, con qualche timido segnale di speranza. E tra i tanti temi c'è quello delle forniture sanitarie, in particolare delle forniture di mascherine. Su questo annuncia Borrelli, il decreto che poi è stato approvato dal governo prevede delle facilitazioni, quindi il punto è questo: a breve dovremmo avere delle novità su questo fronte, delle novità positive. Sentiamo. Stiamo lavorando, io personalmente ricevo tantissime richieste di aziende che si propongono per produrre delle mascherine, e nel decreto legge c'è anche una misura che consente di realizzare mascherine sul territorio nazionale secondo standard che sono comunque adeguati ai livelli di sicurezza, ma che non debbano poi rispettare quelle procedure così lunghe e farraginose per avere una autorizzazione. All'approvazione di questo decreto, sul quale poi entreremo nel dettaglio tra un attimo, il Presidente del Consiglio Conte dice: il governo è vicino a tutti gli italiani. Il governo è vicino alle tante imprese, commercianti e liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni, alle mamme, ai papà, che stanno facendo tutti, anche i giovani, che stanno facendo tutti enormi sacrifici per il bene comune. E insomma, il governo fa sapere che seguiranno altre misure, che questo è solamente il decreto di marzo, per così dire, e poi ne arriveranno altri, 3 miliardi e mezzo per il servizio sanitario, fa sapere il ministro Gualtieri, 10 miliardi per i lavoratori, complessivamente ci sarà una forte iniezione di liquidità, e poi, fa sapere Gualtieri, arriverà un altro decreto in aprile. Abbiamo esteso, come avevamo annunciato, gli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti e copriamo tutti i lavoratori autonomi, stagionali e altre forme di lavoro con un assegno di 600 euro per il mese di marzo. Inoltre estendiamo il congedo parentale e anche offriamo un voucher babysitter per i genitori. Questo è il primo intervento per quanto riguarda marzo, poi torneremo nuovamente per la scadenza di aprile attraverso una probabile riestensione e anche una modulazione e definizione del meccanismo di ristori che stiamo definendo e che sarà oggetto del decreto aprile. Oh, poi tra un attimo prenderemo anche le vostre voci, e però intanto i messaggi scritti, qualche messaggio scritto, qualche WhatsApp scritto. David, che è un operaio e sta andando in fabbrica, grazie a lui e grazie a Ettore, un camionista, dice: mi sto preparando per partire, una missione, lavorare per mantenere viva l'Italia. E Andrea da Roma, un infermiere: sto andando al lavoro in terapia intensiva al Policlinico di Tor Vergata. Dai Andrea, dai. E un ringraziamento, me lo fa notare qualcuno, non è il primo giorno che me lo scrivete, ma è giusto ricordarlo, a tutte le imprese di pulizia che in questo momento sono, a tutti i lavoratori delle imprese di pulizia che sono in una fase di super lavoro, in una situazione complicata anche loro, non facile, eh? E quindi, dai. Luca Cericcioli, presidente della Regione Marche, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito così presto. Buongiorno Cericcioli. A voi. Eccoci qua. Allora, lei ha lanciato ieri dei segnali preoccupanti, delle parole preoccupate, no, per la situazione nella regione. Ha detto: il trend al quale stiamo assistendo è simile a quello al quale ha assistito la Lombardia, ovviamente con numeri diversi, perché ha numeri diversi la regione, naturalmente, però insomma così è. Ci dà un'idea di tutto questo? Ma guardando i dati delle Marche viene fuori una curva che viene confrontata con quelle di altre situazioni, e la curva di crescita della nostra regione è stata la stessa della Lombardia, con qualche giorno di ritardo. Vedendo quello che è successo in Lombardia, è chiaro che ci siamo da una parte preoccupati, ma dall'altra anche imboccati le maniche, capendo quale poteva diventare il livello di difficoltà che le strutture sanitarie avrebbero affrontato. E come siete messi in termini di terapia intensiva, di posti letto? In che condizione siete? Che domanda, per così dire, so che è brutto dirlo così, siete in grado di soddisfare? Beh, noi siamo arrivati a 110 posti di terapia intensiva dedicati, che per la nostra regione è un numero veramente importante. Come me l'avesse detto, 110 dedicati, mi scusi Cericcioli, solo a Covid-19? Covid-19. Sì, ok, prego. Dicevo, 10 giorni fa non avrei creduto la capacità di mettere in campo così tante antiposti, però dobbiamo aumentare, dobbiamo crescere. Oggi dovrebbero arrivare 38 ventilatori della Protezione Civile Nazionale, importantissimi per poter aumentare questo numero. E quindi impegno della prima linea, ci sono anche oltre 500 ricoverati, è stato un grande lavoro quello, e continua ad essere, di liberare quelli che erano spazi dedicati ai pazienti no Covid, per avere ogni giorno 50, 70, 100 posti in più per i pazienti Covid che arrivano numerosi in pronto soccorso. Quindi un lavoro veramente intenso da parte di chi lavora in sanità, ma con l'obiettivo di far trovare quello che serve. Cericcioli, dall'altro lato avete il vantaggio del precedente, no? Di essere in anticipo di qualche giorno rispetto a una situazione che ha trovato la Lombardia, non dico impreparata, perché insomma la situazione della sanità lombarda la conosciamo, è complessivamente una buona situazione, però insomma, vi siete trovati con un filo di anticipo e quindi con la capacità forse di prepararvi un pochino prima. Vedere la Lombardia, che è un po' rappresenta a livello nazionale, forse europeo, uno dei sistemi sanitari più forti, così in difficoltà, è chiaro che ci ha spronato a lavorare velocemente, perché se in difficoltà Lombardia, seguiamoci le altre regioni. Ceriscioli, in questi giorni si sta molto discutendo, in queste ore, e con un'estrema variabilità a livello regionale, sul come e quanto fare i tamponi. In quella che è un'apparente svolta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nelle scorse ore ha detto sarebbe meglio fare i tamponi a tutti i casi sospetti, anche quelli asintomatici, che è la via che sta sostanzialmente prendendo il Veneto, che è stata applicata in un piccolo territorio, quello di Vo, ma poi insomma Zai ha detto metto i camper, estendo i controlli ovunque. Pensate si possa adottare un metodo di questo genere anche da voi, perché sarebbe importante anche a livello di analisi epidemiologica, da quel che abbiamo capito. Sì, noi abbiamo seguito l'indicazione dell'Istituto Superiore, che fino a ieri dava un'indicazione esattamente diversa, ovvero andare a fare il tampone solo ai sintomatici, perché aveva manifestato dei sintomi, l'abbiamo fatto in maniera molto rigorosa. E siccome il dato emergente è quello anche di asintomatici che fondono il contagio, è chiaro che l'aumento dei tamponi diventa una strategia importante. Soprattutto immagino, la nostra regione ha un valore molto alto nella parte nord della regione e poi decrescente nel resto. Diciamo, nella parte dove i numeri sono ancora bassi, probabilmente questa strategia ha anche una maggiore possibilità di successo. Ci stiamo attrezzando proprio per questo, con una macchina nella zona di Ascoli, nella zona sud della regione, che è capace di processare 800 tamponi al giorno e quindi fa fare un salto di qualità importante. Ok, quindi l'idea è di applicare questo sistema del tampone estensivo anche da voi, in sostanza? Sì. Ok, benissimo. Per il momento 880, contate di estendere questa dimensione ulteriormente o aspettate e vedete? È già un numero. Ma rispetto ad oggi, tenuto conto che facciamo con lo struttura di Ancona sui 350 tamponi al giorno, avere la struttura di Ascoli, poi si aggiungerà anche quella di Fermo, che fanno lo stesso tipo di attività, ci permette quasi di raddoppiare, se non di più, no, più di raddoppiare, di quadruplicare quella che è la capacità produttiva di oggi. La ringrazio. Grazie Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, per essere stato con noi, e altri saluti. Guardate, li facciamo volentieri, perché tutta gente che come noi è al lavoro e spesso con lavori più pesanti del nostro, insomma, per quanto informare in questi giorni non sia esattamente semplice. Daniele, che è un agricoltore, dice sto andando a lavorare perché gli italiani devono pur mangiare, ci scrive da Mantova. Le guardie giurate, certamente. Insomma, tutti quelli che non possono fermarsi, no? Un autista di un'azienda sanitaria del Friuli che trasporta i tamponi di tre ospedali. Mai mollare, ci scrive. Mai, mai. E mai ha mollato Alberto Zucchi, che è direttore del servizio epidemiologico dell'azienda territoriale sanitaria di Bergamo. Zucchi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. Appena uscito dall'aver contratto il virus, il coronavirus, Covid-19, insomma, proprio lei, tra l'altro in una situazione, quella bergamasca, che è quella che al momento presenta le maggiori preoccupazioni, direi, Zucchi. Sì, può suonare paradossale, ma come direttore del servizio epidemiologia ho vissuto questa esperienza di epidemiologia personale sul campo, vorrei quasi dire, essendo stato probabilmente uno dei primi contagiati in provincia di Bergamo. Posso però portare un messaggio di ragionevole ottimismo, perché per quanto mi riguarda personalmente la vicenda si sta risolvendo in maniera estremamente positiva. Per lei, naturalmente. Sì, naturalmente. Su questo voglio essere molto chiaro. Prego. Non si tratta di un banale raffreddore, non si tratta neppure di un virus influenzale, sicuramente qualcosa di molto più impegnativo. Lei che cosa ha avuto in sostanza? Ci dice un po' di sintomi? Sì, un quadro clinico abbastanza tipico, con un'insorgenza di natura febbre sostanzialmente, di livello inizialmente medio-alto, quindi 38, 38 e mezzo, una tosse secca abbastanza fastidiosa, nel mio caso specifico è stato l'elemento un po' più perturbante, anche perché la febbre rispondeva molto bene alla banale tachipirina, sì. Insomma, più delle mialgie diffuse, i classici dolori ossei che tutti noi associamo ad esempio all'influenza. Ecco, ripeto, come esperienza personale, fortunatamente, anche probabilmente legato al fatto che io, grazie a Dio, godo di un buono stato di salute generale, non ho patologie croniche pregresse importanti, quindi questo può aver giocato un ruolo estremamente positivo. Dicevo, la mia esperienza si sta risolvendo in maniera positiva, non ho avuto nessun tipo di complicanza respiratoria, sì. Questo è stato un elemento assolutamente positivo. Ripeto, non va presa sotto gamba la questione, come i numeri purtroppo stanno a dimostrare, soprattutto, perché, soprattutto da voi a Bergamo. Assolutamente. Zucchi, voglio continuare a parlare con lei, ma abbiamo una pausa prima. Zucchi, ci dà anche un quadro di Bergamo, che in questo momento sembra il problema più grande in Lombardia? Sì, abbiamo una quantità di soggetti positivi conclamati decisamente elevata, stiamo superando ormai i 3.500, ci avviciniamo ai 4.000. C'è un tema che ho sentito già espresso dal vostro interlocutore precedente, il fatto che tamponi sì, tamponi no, tamponi quando, probabilmente è verosimile, e ce ne stiamo accorgendo dalla curva epidemica, che anche in provincia di Bergamo ci sia stata una quantità di soggetti asintomatici o paucisintomatici, quindi con pochi sintomi di lieve entità, che hanno contribuito ad innalzare questa curva epidemica in provincia di Bergamo, probabilmente già prima di quando è scattata l'emergenza in termini più ufficiali. Il problema grosso a Bergamo in questo momento è il fatto che il sistema di prima linea, quindi le terapie intensive, i ricoveri ospedalieri, che sono in gran parte legati a queste complicanze respiratorie, è veramente saturo, veramente ai limiti, anche se ha risposto nel suo insieme con, vorrei dire, uso un termine un po' retorico, con grande eroismo. Non dimentichiamo anche il lavoro immenso che stiamo facendo noi di ATS nel coordinare il territorio. Ricordiamoci che anche i sindaci sono in prima linea, sì. Perché ci sono tantissime tematiche non sanitarie che arrivano immediatamente dopo gli aspetti sanitari, e il lavoro enorme che stanno facendo i medici di famiglia, perché riuscire a tenere un paziente a casa in presenza di iniziali complicanze respiratorie vuol dire alleviare il sistema ospedaliero. E stanno facendo un enorme lavoro anche i nostri medici di famiglia della provincia. Zucchi, a suo giudizio bisogna far zona rossa a Bergamo e dintorni? A questo punto si sarebbe dovuto fare, secondo lei? Si sarebbe dovuto fare una domanda da $1 milioni, come si suol dire. Probabilmente all'inizio non si è avuta una contezza precisa del fatto che i focolai si stavano espandendo in provincia di Bergamo con una velocità notevole. A questo punto non ha molto senso, sì. Anche perché l'unica risposta seria che si può dare è il rispetto rigorosissimo delle misure di distanziamento sociale. È l'unica risposta seria in questo momento che si può dare. È l'unico modo per migliorare e rallentare la diffusione del contagio, al di là di tutti i ragionamenti che vogliamo fare. Certo. Alberto Zucchi, direttore del servizio epidemiologico della ATS di Bergamo, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Volevo farvi sentire, a proposito di territori, insomma, che destano qualche preoccupazione. Ovviamente quelli che destano più preoccupazione sono le aree metropolitane. Così l'assessore Lombardo Gallera su Milano. Milano è a 1983 con un incremento di 233, che è un incremento diciamo costante, anche se in una costanza di crescita, che però rispetto al volume degli abitanti di Milano e provincia, più di 3 milioni di abitanti, è ancora un risultato fortunatamente contenuto. Così dunque l'assessore Gallera. Poi c'è tutto il capitolo, ovviamente non è esaurito il discorso, ragazzi, poi ci torneremo in rassegna stampa, così come non sono esauriti i vostri messaggi che scrivete, cioè chiedendo di ricordare ogni singola categoria, lo capisco, poi ci arriveremo, gli edicolanti ovviamente che contribuiscono, no, a far vendere i giornali, a dare diffusione alle informazioni anche su quello che succede. Certo, chi si occupa, chi è nel settore sanitario, quelli che trasportano l'ossigeno a domicilio. Siete tantissimi e lo so, state tenendo in piedi il paese. E di questo e per questo andate ringraziati. Poi c'è l'aspetto economico. Allora, il governo ieri ha varato questo decreto, questo primo decreto, perché poi, come avete sentito, Gualtieri dice ne faremo un altro ad aprile, con uno stanziamento di 25 miliardi, il rinvio di una serie di scadenze fiscali tecnicamente al 20 marzo, tecnicamente, e poi in realtà però è molto più estesa per un meccanismo complicato del quale parliamo con Enrico Zanetti, che torna nostro ospite, è commercialista e già vice ministro all'economia nel governo Renzi. Zanetti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, il meccanismo complicato è che rinvio al 20 marzo le scadenze, ma in realtà le rinvio a maggio per chi è sotto i 2 milioni di fatturato e sopra i 2 milioni nel caso di aziende appartenenti a 16 filiere. Insomma, è un po' complesso, devo dire, Zanetti. Insomma, forse si poteva rinviare per tutti e sarebbe stato più semplice, più comodo, con due righe di decreto. Beh sì, sarebbe sicuramente stato più semplice, più comodo, ma anche indubbiamente più arduo dal punto di vista finanziario, nel senso che se si invia tutto per tutti, ancorché si faccia in quel caso qualcosa di semplice e anche in teoria di molto giusto dato le circostanze, si creano dei presupposti di tensione finanziaria nel bilancio dello Stato che non hanno nulla a che vedere con i rapporti con l'Europa, ma semplicemente con la gestione di tesoreria e quindi le disponibilità di cassa nell'immediato per poi pagare gli stipendi, pagare le pensioni, e quindi è ovvio che proprio tutto per tutti immediatamente non si poteva fare. È stato comunque appunto previsto una sospensione fino sostanzialmente alla fine di maggio delle scadenze di marzo e aprile per i soggetti cosiddetti più piccoli, quindi quelli fino a 2 milioni di fatturato. In quel caso, se tu nel 2019 avevi meno di 2 milioni di fatturato, qualunque sia la tua attività economica, i versamenti dell'IVA e delle ritenute relative ai dipendenti, sia fiscali che contributive, fino a maggio non le versi sostanzialmente, e se sei sopra quella soglia, come giustamente veniva ricordato, non le versi comunque, in quel caso soltanto però se fai parte di uno dei settori particolarmente esposti, come ad esempio quello turistico, la logistica, il settore dei teatri, museali, attività termali e una serie di altre che sono espressamente indicate nel società sportiva, le società di assistenza, l'associazione di assistenza ai disabili, i servizi di trasporto passeggeri, aerei, esatto, treni e via dicendo, insomma, quindi tutta una serie di settori importanti, mentre invece rimangono le scadenze per settori meno colpiti. Penso per esempio all'agroalimentare, che ovviamente in questo periodo è l'unico che sta vivendo una fase di economia semi normale, però sotto, appunto, e quindi per esempio i negozi, tanto per fare un esempio, no? I piccoli negozi sono esentati evidentemente dal pagamento immediato di tasse e contributi. Complessivamente, ne abbiamo parlato molto di questo tema nei giorni scorsi, le sembra che i provvedimenti che ci sono per gli autonomi, i famosi 600 euro, non sono un contributo una tantum, abbiamo appreso, ma un contributo che ci sarà finché dura l'emergenza, un contributo mensile finché dura l'emergenza, e poi il rinvio delle scadenze fiscali, basta per gli autonomi oppure no? Beh, dal punto di vista del sostegno, quindi misure di tipo lavoristico equiparabile a una sorta di cassa integrazione, assicurare 600 euro non una tantum ma per ogni mese, che purtroppo dovesse, come dire, interessare ulteriormente questa situazione, onestamente non è un intervento da poco. Sul fronte fiscale invece al momento, diciamo, è più così, è un inizio, ma anche lì bisognerà ragionare in termini analoghi, cioè se durerà ancora questo tipo di situazione, cioè, soprattutto per i soggetti più piccoli, diciamolo con franchezza, è molto più interessante pensare di sospendere e rinviare il pagamento dei saldi di imposta, di imposte sul reddito a giugno, perché molti soggetti piccoli, onestamente, del rinvio delle ritenute fiscali sui dipendenti non sanno cosa farsene, semplicemente perché moltissimi non hanno dipendenti, quindi mentre le imprese più grandi che ce li hanno, se non fanno parte dei settori esposti, ma comunque stanno subendo un'evidente contrazione delle loro attività perché tutto è più fermo di prima, avrebbero interesse ad avere quella sospensione ma non gliel'hanno data. Quindi, diciamo, lungi da me sparare critiche in una situazione come questa che è complicatissima, diciamo che sul fronte delle casse integrazioni e anche dei provvedimenti analoghi per gli autonomi si è fatto, secondo me, qualcosa di abbastanza importante. Sul fronte fiscale per ora, come dire, si è fatto proprio il minimo sindacale, ma si dovrà necessariamente reintervenire, sì, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Sì, molto probabile, perché poi ci scrive giustamente un ascoltatore: già, e a maggio come li paghi se non hai lavorato? Questo è un altro tema. È un buon punto abbastanza evidente. Grazie intanto ad Enrico Zanetti per essere stato con noi, ex viceministro all'economia. Voglio chiudere con un piccolo quadretto internazionale. Innanzitutto Trump che ammette: la cosa non è sotto controllo. You're not saying it's under control, right? I'm not referring to it, meaning the... Yeah, if you're talking about the virus, no, that's not under control for any place in the world. I think I read... E poi la mette generica, non è sotto controllo in nessun posto nel mondo. Boris Johnson, ieri abbiamo parlato della strategia inglese alle 8.20 e se volete andatevi a risentire il podcast perché ci sono molti spunti interessanti su questo. Strategia era: raggiungiamo l'immunità di gregge, e quindi preparatevi, moriranno delle persone. E beh, insomma, ha cambiato idea. Today we need to go further, because according to Sage, the... Insomma, qua è mentre dice limitate gli spostamenti per 14 giorni, niente di effettivamente restrittivo, e però la sostanza è quella, così come questa è la sostanza di Macron che dice siamo in guerra. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Insomma, riducete i contatti allo stretto necessario e domani ci saranno restrizioni ancora maggiori. Così Emmanuel Macron. Come vedete, un po' di strategie cambiano faccia. Abbiamo 5 secondi veramente per chiudere con un po' di musica. Don't worry about a thing. Sappiamo che dura, ma ce lo siamo scelto come inno. Forse non tutto andrà bene, lo sappiamo, e siamo vicini alle famiglie delle persone che hanno perso qualcuno in questo momento, che sono preoccupate. E però proviamo a guardarla un po' più a lungo termine e a dirci che andrà tutto bene.